Trovare lavoratori e trovarli qualificati è diventato sempre più difficile. Secondo uno studio della CGIA di Mestre su dati Excelsior Union Camere, nel 2022 in Friuli Venezia Giulia sono stati più di 52.000 i lavoratori difficili da reperire. Un problema rilevato dal 48,3% delle imprese e, peggio di noi, ha fatto solo il Trentino Alto Adige, con una percentuale che supera il 50%. Le difficoltà maggiori si sono rilevate a Pordenone, dove il problema ha riguardato più della metà degli assunti, e a Gorizia, dove la percentuale ha sfiorato il 49%. Le due province presentano la situazione peggiore a livello nazionale, superate solo da Bolzano con il 52,5%. Udine contava 22.000 lavoratori difficilmente reperibili, mentre Trieste ne ha registrati poco più di 9.000, ma con una percentuale di incidenza più bassa, il 44,2%. In un caso su tre mancano camerieri e commessi, in uno su quattro è difficile trovare addetti alle pulizie e baristi, mentre per i cuochi ne manca oltre la metà. Come rileva Carlo Scorvino dell'Osservatorio regionale sul mercato e le politiche del lavoro, ci si dimentica spesso che siamo di fronte a una regressione demografica grandissima. In altre parole, i lavoratori sono difficili da trovare perché non sono mai nati. Secondo le previsioni, in 20 anni avremo 30.000 persone in meno nella fascia dai 15 ai 34 anni. A questo si aggiunge il problema del cosiddetto mismatch, con i candidati che non hanno le competenze richieste dai datori di lavoro, oltre al fatto che il tessuto economico della regione, fatto di piccole imprese, spinge i laureati a cercare lavoro altrove. Iniziative come gli Open Day, che collegano università e aziende, possono aiutare, anche se, anche qui, non tutte le lauree sono uguali, visti i maggiori sbocchi per ingegneri, fisici e matematici rispetto a chi esce da facoltà umanistiche. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.